Il gastronauta di Davide Paolini. Ritorno alla terra, in viaggio nel mondo dell'agricoltura. Buona giornata a tutti. Ebbene, oggi vogliamo un po' smentire un luogo comune. Un luogo comune perché, magari se qualcuno lo pensasse ancora, io spero di no, che non esistono le donne in agricoltura, non esistono donne leader in agricoltura. Noi faremo una panoramica nazionale, proprio andremo in diverse aree e territori d'Italia per dimostrare che in agricoltura la donna è veramente molto presente con straordinari risultati. Quindi forse ripensando un po' a quello che ha detto recentemente il ministro delle politiche agricole, che lavorare in agricoltura fa figo, ecco, io non so se veramente sia così o meno, oppure se no, se fa qualche cos'altro, cioè fa imprenditrice, fa personalità, ecco, io credo che sia soprattutto questo. Ma io lo voglio chiedere subito a Marina Di Muzio, che è presidente Confagricoltura Donne Imprenditrici Agricole. Addirittura lei ha ben 3 aziende nel settore parmigiano-reggiano, pasta e abbacchio romano. Poi lo chiederemo anche a Gabriella Fantolino, che è una leader assolutamente nella produzione delle uova, quindi due leader. Buongiorno a Marina Di Muzio, buongiorno a Gabriella Fantolino. Buongiorno. Marina Di Muzio, bene, la donna in agricoltura credo che ormai sia una grossissima realtà. Un tempo diciamo che le donne hanno retto l'agricoltura, le famose asdore dell'Emilia Romagna, magari che non apparivano alla ribalta, ma da sempre insomma la donna in agricoltura è un personaggio importante. Beh, senz'altro è un dato certo. Oggi, soltanto appunto per parlare di dati, le donne sono al 44% a capo delle imprese agricole e parliamo di 500.000 di imprese, quindi sicuramente un numero importante da non sottovalutare, e questo è soltanto il dato che emerge dall'Istat e che è anche supportato dai dati INPS. Poi ci sono tutta un'infinità di donne che svolgono un ruolo silenzioso nell'ambito dell'attività agricola, che sono le mogli dei conduttori, le familiari del conduttore. Oggi parlare di impresa femminile è ormai diventata una realtà. Porto avanti un discorso che è quello di far fare un passo avanti all'imprenditoria femminile agricola, che per molto tempo è rimasta associata ad un discorso di economia domestica. Oggi quella è una realtà che, seppure esiste, viene soppiantata invece da una realtà che è impresa agricola, anche se a capo di questa impresa c'è una donna. E le difficoltà nel sostenere questo ruolo poi sono quelle comuni a tutte le donne, e cioè la conciliazione fra i problemi, fra l'essere una mamma, una moglie, una sorella, e nello stesso tempo avere anche un'azienda da portare avanti con tutto quello che significa. Perché le aziende non hanno genere, il genere è soltanto una prerogativa di chi sta a capo dell'azienda. Ecco, volevo chiedere appunto a Gabriella Fantolino, che ha questa azienda leader appunto nella produzione delle uova. Lei è passata dall'università subito in un'azienda agricola. Ecco, lo stacco è stato molto forte? No, guardi, una scelta quasi di continuità senza scossoni, perché 50 anni fa i miei genitori hanno iniziato l'attività di produzione delle uova e lo hanno fatto con passione ed entusiasmo, e io ho ereditato questa passione e questo senso di responsabilità, quindi io mi sento partecipe fin da quando ero una ragazza in questa attività, quindi sono fiera soprattutto del valore che si porta sul mercato. Quindi nel mio immaginario ci sono i consumatori, sono circa 10 milioni ogni anno che davanti allo scaffale del punto vendita allungano il braccio scegliendo le uova Fantolino. Ecco, questa per me è un'emozione grandissima, quindi un senso di rispetto nei loro confronti. E quindi, come le dico, sono passata dall'università al lavoro, ma con grande entusiasmo, perciò è stato veramente una scelta di vita che condivido tra l'altro con mio marito, e questa è stata la mia fortuna, perché ha deciso molto giovane di fare questo passo insieme a me, e quindi condividiamo l'azienda, anche se devo dire io sono comunque il titolare e lui al mio fianco, un po' come lo sono quindi, tante mogli. Quindi appunto la donna che comanda in questo caso, bene, è veramente molto interessante. Marina Di Muzio, lei rappresenta tante donne appunto imprenditrici agricole, siete molto unite, è un gruppo unito, cioè sentite questa forza? Diciamo che abbiamo sentito la necessità di far sentire la voce del mondo agricolo al femminile, perché anche in un discorso di pari opportunità, che poi sono le politiche che servono alle donne per poter lavorare, anche in questo campo qui diciamo che il mondo agricolo è sempre stato un po' tenuto in secondo ordine, non abbiamo forse avuto il tempo di far sentire la nostra voce, e per questo oggi la rappresentanza serve oltre che per rafforzare il nostro impegno affinché ci sia sempre un'agricoltura più al centro dell'attenzione politica del paese, ma anche perché si possa far capire che appunto il mondo delle donne che fanno agricoltura è un mondo che ha bisogno comunque delle stesse politiche di conciliazione di cui hanno bisogno le altre donne. Oggi le politiche di conciliazione vengono sempre di più pensate per le donne che vivono in città. Non dimentichiamo che noi viviamo il territorio, siamo lo strumento affinché il nostro territorio italiano certo sia mantenuto, e quindi ed è anche fare agricoltura, mi riferisco anche a quello che ha detto prima Gabriella, è proprio uno stile di vita che coinvolge la persona, l'imprenditore, imprenditrice e tutta la sua famiglia. Ed è per questo che abbiamo bisogno veramente di un'attenzione particolare al di là per quello che noi produciamo, che è la base, che è alla base di ogni della vita, ma anche per il ruolo nella difesa e nello sviluppo del territorio. Bene, grazie a Marina Di Muzio e Gabriella Fantolino, avete sentito due leader in agricoltura, ma io così qua e là sentiremo assieme delle musiche particolari che abbiamo voluto trarre un po' da quella, diciamo, quel settore un po' di musiche molto legate all'agricoltura. E allora cominciamo a sentire, per dare il benvenuto proprio alle nostre ospiti. Ecco, avete sentito, metteremo delle musiche che riguardano il passato, proprio per smentirlo, perché oggi la realtà è completamente diversa e come dicevo ci sono delle donne sicuramente alla guida delle aziende agricole che hanno rotto col passato, perché hanno studiato, perché sono veramente tenaci, perché così hanno portato le loro aziende in molti casi proprio alla leadership dei loro settori. Ebbene, cominciamo da un'azienda che ha, diciamo, una particolarità che forse quando i nostri radioascoltatori sentiranno rimarranno un po' perplessi. Abbiamo con noi Tiziana De Vincenzi, che è un'allevatrice di bestiame a Varese Ligure, in provincia di La Spezia. Allora io la prima cosa che chiedo a Tiziana, come mai ha scelto questo mestiere? Buongiorno. Io l'ho scelto perché, diciamo, mio papà faceva l'agricoltore, mio nonno anche, e quindi da una generazione abbiamo avuto sempre bestiame, mi sono affezionata e praticamente ho continuato l'attività di mio papà e poi successivamente anche quella di mio fratello, che purtroppo è mancato in giovane età. Ecco, ma non ha avuto mai la tentazione di fare altro? No, sinceramente ho studiato, vabbè, un diploma di ragioniera, però a parte quello, quando ho finito gli studi io ero talmente appassionata e mi piaceva tanto vivere all'aria aperta e stare in questi posti che non ci ho minimamente pensato di cambiare, bene, cercare un altro lavoro. Bene, rimanga con noi perché ora andiamo in Malga, andiamo in alto, andiamo da Sonia Spagnoli dell'azienda agricola La Casella, tra l'altro una giovanissima imprenditrice. Buongiorno Sonia. Buongiorno a tutti, sono in Malga, sono a 2000 metri. Ecco, e sei contenta di essere lì perché so che tu sei molto felice quando arrivi in Malga, è così? Sì, è una tradizione che continua da una vita praticamente, sono molto felice di essere qui perché quando torno durante i mesi estivi qui praticamente rinasco, perché questa è la mia attività e sicuramente è il punto di forza dell'azienda e qui insomma lavoriamo bene. Ecco. Ma ora andiamo anche in provincia di Pavia, andiamo a Ruino, andiamo all'azienda agricola del Boscasso da Maria Chiara Onida. Buongiorno Maria Chiara. Buongiorno Davide. Tu sei felice di aver scelto di produrre caprini, che ormai sono notissimi e sono molto famosi un po' dappertutto. Sì, sì. Io l'ho scelto ormai quasi 25 anni fa. Quindi sei convinta e hai continuato. Da quanti anni hai detto che hai cominciato a fare questo lavoro? Dunque, io ho iniziato praticamente nel 1990, quindi 24 anni. È cresciuta la tua azienda in questi 24 anni? Sì, sicuramente. Avevo iniziato proprio nel piccolo, senza aspettarmi niente, quindi un po' a livello di prova, e poi piano piano è cresciuta. Ecco, diciamo che facendo questa ricerca sulle donne imprenditrici in agricoltura mi sono accorto che i casi dell'allevamento di capre, della produzione di caprini, è molto diffuso tra le donne. Come mai, Maria Chiara? C'è una ragione particolare? Credo di sì. Intanto perché è un allevamento che è molto a misura d'uomo e di donna, direi, perché gli animali sono facilmente trattabili, sono animali che pesano massimo 60-70 kg, quindi sicuramente è più facile maneggiarli, familiarizzare con loro che non grossi animali come vacche o cavalli. E poi, ecco, la cosa che a me piace molto di questo allevamento è che, siccome le produzioni sono più basse a livello di quantitativi normalmente, si sviluppa la filiera completa, quindi dall'allevamento del bestiame, la mungitura, poi si fa formaggio, poi spessissimo si unisce anche a un'attività agrituristica. Quindi per noi donne che abbiamo bisogno di un lavoro creativo, lavoro che ci faccia vedere il risultato finale, è molto più bello. Io non penso che riuscirei a fare esclusivamente l'allevatrice, produrre del latte e vendere. Vuoi vedere il prodotto finito? Bene. Esatto, questo nella capra è molto più facile. Rimani con noi perché chiediamo la stessa cosa a Silvia Bendandi, che è una vignaiola emiliana dell'azienda agricola Bendanti a Toscanella di Dozza. Buongiorno Silvia, anche lei vuole vedere appunto dai vigneti, vuole vedere il risultato in cantina? Assolutamente sì, buongiorno a tutti. Come diceva la nostra collega, condivido. Noi donne abbiamo bisogno di trovare una gratificazione, diciamo così, anche nell'approccio creativo e di soddisfazione nel reale, nel vedere il prodotto finito di ciò che facciamo. Quindi condivido appieno. Ma Tiziana De Vincenzi, io torno a lei. Quando magari incontra delle persone e le dice che il suo mestiere è l'allevatrice di bestiame, quali sono le reazioni? Io le dico che forse prima noi contadini, chiamiamoci così, che anche adesso ci chiamano imprenditori agricoli, era praticamente un po' visti da lontano, forse un po' schivati. Invece ultimamente siamo molto ben visti, anche perché noi qua facciamo biologico e quindi siamo apprezzati, direi, ecco, in una parola. Ecco, volevo chiedere a Maria Chiara, la scelta del biologico è molto diffusa più tra le donne imprenditrici, le donne contadine, le donne allevatrici, chiamiamole come volete, rispetto agli uomini? C'è forse, secondo te, una ragione? Sì, anch'io questa cosa l'ho notata. Ma possiamo ragionarci insieme. Probabilmente, motivo potrebbe essere che noi donne siamo molto più attenti alla salute, molto più attenti al benessere della famiglia, dei nostri figli. Io ho avuto 5 figli, ci tengo molto a loro, alla loro crescita, alla loro alimentazione, quindi per me produrre con criteri, diciamo, di agricoltura biologica è prima di tutto un alimentare bene la mia famiglia. Forse noi donne siamo le nutrici. Certo, no? È vero, prima di tutto siamo la famiglia. Siamo più attenti a questo aspetto. L'uomo è più attento al business, all'economia dell'azienda, quindi se biologico vuol dire business in quel momento lo applica, se biologico comporta delle spese in più e magari meno rese, eccetera, eccetera, spesso l'uomo è portato a dire non ne vale la pena, no? Noi siamo più invece ideologiche. Chiedo la stessa cosa a Silvia, se lei ha fatto una scelta per i suoi vini di agricoltura biologica o biodinamica. Allora, no, io ad oggi no, faccio comunque agricoltura tradizionale e non sono certificata biologica o biodinamica, anche se guardo con grande attenzione a questo mondo e mi sto interessando per valutare se potrebbe essere una scelta prossima per la mia azienda. Condivido appieno, anch'io sono una mamma di un bimbo e la mia scelta è stata anche in funzione di poterlo crescere nella stessa dimensione nella quale ho avuto la fortuna di crescere io, ovvero in campagna. Quindi ha condizionato molto anche da parte mia la scelta di tornare a un certo tipo di vita più a contatto con la natura e ai tempi della ciclicità della natura. Però, se posso permettermi, non sono pienamente d'accordo sul fatto che gli uomini sono più portati al business. Io, per esempio, rispetto ovviamente solo la mia piccola esperienza, mi sono dovuta trovare a dover prendere in mano e a fare delle scelte proprio di business, di imprenditoria o comunque di economicità per la mia azienda, perché il mio papà, alla quale appunto mi sono affiancata all'inizio della mia azienda, forse in un approccio più semplice e quindi con l'andare degli anni, diciamo in termini anche di adeguamento di costi del lavoro, di tutte le messe in sicurezza dell'azienda, faceva fatica da solo a star dietro a tutte. Quindi una delle prime cose che come obiettivo mi sono data all'entrata nella mia azienda, oltre a quello di tornare a studiare, perché appunto io facevo un altro lavoro, prima facevo la maestra e quindi proprio totalmente un altro percorso formativo, quindi mi sono dovuta davvero rimettere in gioco oltre che cambiare lavoro ma anche ricominciare a studiare. Era uno dei primi obiettivi quello di comunque capire bene e in fretta le potenzialità della mia azienda per far tornare una sorta di bilancio che, grazie a Dio, lo dico con molta umiltà e soprattutto in questi tempi, ad oggi appunto riesco a far tornare, e ha visto con la mia entrata in azienda davvero un rilancio nuovo per quella che era un'azienda storica ma che diciamo necessitava un adeguamento di stile imprenditoriale da tutti i punti di vista, sia bene, quello produttivo bene. Ma anche quello di vendita. Sì, Silvia, la interrompo perché lei è un fiume Prego. In piena, io ora torno come tutti gli emiliano romagnoli. Beh, io sono romagnolo, quindi torniamo in Amalga, torno da Sonia Spagnoli. A proposito, Sonia, dei conti, i conti tornano nella tua azienda? I conti tornano soprattutto quando si è in Malga, perché l'attività della Malga è l'attività che contraddistingue la nostra piccola azienda a dimensione familiare. Infatti l'attività estiva è quella che ci dà un po' lo spicco, ci dà un po' il rilancio, perché i prodotti realizzati qui sono quelli più apprezzati, quelli più conosciuti dalla nostra clientela, e quindi sicuramente viviamo grazie alla promozione estiva. Tu quanti mesi rimani in Malga, Sonia? Rimaniamo circa 100 giorni, quindi ci trasferiamo qua a giugno e scendiamo a Fondovalle, a Gianico a settembre, e durante questi 3 mesi di lavoro si trasforma il nostro latte e lo si trasforma in prodotti tipici che vengono poi prenotati da una clientela affezionata e che ormai apprezza questa tipologia di prodotto peculiare e tipico, insomma. Senti, ma non senti la mancanza del paese, della vita, diciamo, comune nei 3 mesi che stai in Malga? Qualche anno fa sì, perché eravamo veramente piuttosto isolati e poco conosciuti. Adesso, fortunatamente, grazie a un grande sforzo di promozione, proprio di voglia di farsi conoscere, sono riuscita ad avvicinare tante persone alla nostra realtà proprio qui in Malga, per cui non sono mai sola, ho sempre qualche ospite in casa. In particolare, da qualche anno do la possibilità anche a ragazzi, a giovani, ad appassionati, a curiosi di conoscere questo mondo, e magari fanno delle piccole vacanze di una settimana, 15 giorni. Ma li fai lavorare? Li fai lavorare? Li facciamo lavorare, ovviamente, sì, una vacanza lavorativa, diciamo, in modo da far conoscere un mondo completamente diverso, comunque poco conosciuto, e io in questo modo riesco a promuovere la mia attività e riesco ad avere anche persone che mi fanno compagnia, che mi rendono, insomma, la mia giornata, seppur molto impegnativa, con un'area diversa, insomma, innovativa, curiosa, ecco. Volevo chiedere a Tiziana De Vincenzi, l'allevamento è da carne o da latte? Non è allevamento da carne, facciamo linea vacca vitello e poi il vitello ingrassato praticamente lo vendiamo alla cooperativa, abbiamo una cooperativa carni a San Pietrovara biologica. Bene, io ringrazio Maria Chiara Onida dell'azienda agricola Boscasso con i suoi caprini, Silvia Bendandi con i suoi vini, Sonia Spagnoli con i suoi formaggi di Malga e Tiziana De Vincenzi con la carne di Limousin. Grazie e buon lavoro a tutte. Grazie mille. Il gastronauta. Eccoci di nuovo alla scoperta del mondo femminile in agricoltura, un mondo che già abbiamo sentito molto interessante, un mondo tutto da far conoscere, perché probabilmente è un pianeta completamente sconosciuto, quello delle donne imprenditrici, le donne imprenditrici in agricoltura. Abbiamo sentito la forza, abbiamo sentito anche l'amore per il mestiere che fanno. Ora cominciamo questo nuovo capitolo da Milano, vicino a Milano anzi, anche perché mi piace molto far conoscere appunto ciò che c'è attorno a Milano. Molti pensano che Milano, l'Interland, sia tutto fabbriche, sia tutto imprese e manifatturiere. In realtà Milano ha un Interland davvero molto interessante dal punto di vista agricolo. Io spero che con l'Expo 2015 qualcosa emerga. E io chiedo subito a Renata Lovati, della Cascina Isola Maria di Albairate, appunto, se è d'accordo che esiste questo mondo ed è un mondo tutto da scoprire attorno a Milano. Buongiorno Renato Lovati. Sì, buongiorno. Confermo che intorno a Milano esiste il Parco Agricolo Sud Milano, una enorme quantità di ettari coltivati ad agricoltura. Ecco, la cosa interessante mi sembra che stia emergendo di questo mondo attorno a Milano, che c'è una scelta biologica ben definita. Sì, noi abbiamo lavorato insieme a mio marito per la nascita di un distretto di economia solidale che è nato proprio nel 2009 vicino a noi, alla Cascina Forestina Cesliano. Questa è una realtà che ha fatto sì che i cittadini della città di Milano, soprattutto le famiglie riunite nei GAS, nei gruppi di acquisto solidali, chiedessero agli agricoltori più disponibili di andare incontro alle loro richieste, che sono soprattutto quelle del biologico, di acquistare prodotti biologici. Quali sono i prodotti più diffusi appunto di questo, di questo comparto milanese? Il discorso che si è fatto nel distretto era quello di cercare di invertire un po' la rotta delle coltivazioni tradizionali, che erano riso, mais e foraggere, perché i cittadini chiedono anche ortaggi, frutta, formaggi, carne. E quindi abbiamo visto quali erano le aziende più sensibili e più disponibili. Infatti noi abbiamo iniziato la conversione al bio nel 2009 e insieme a noi un'altra ventina di aziende. Questo ha fatto sì che adesso noi disponiamo di un paniere di prodotti per i cittadini di Milano. Ecco, rimanga con noi perché ora andiamo a Velletri e Cisterna in provincia di Latina da Fabiola Di Silvio, e perché anche l'azienda appunto che Fabiola gestisce insieme al marito fa parte dei gruppi di acquisto solidale, vero Fabiola? Sì, buongiorno. Sono Fabiola. Sì, insieme a mio marito abbiamo un'azienda agricola biologica di frutta e verdura e gestiamo già da anni i gruppi di acquisto. Cosa producete voi come azienda? Noi abbiamo tutta la frutta e la verdura biologica di stagione. Quindi avete vasti frutteti, variegati, mi sembra di capire. Abbiamo circa 57 ettari di terreno, tutti certificati, e facciamo da ortaggi, abbiamo frutteti, abbiamo i kiwi, il vigneto e l'uliveto. Credo che bisognerebbe fare molta più comunicazione e informazione oggi in Italia sulla stagionalità della frutta e verdura, perché lei è d'accordo su questo? Sì, sono pienamente d'accordo. Abbiamo appena da 2 mesi aperto una bottega di campagna amica biologica a Roma, e praticamente c'è poca conoscenza della stagionalità dei prodotti. Sì, purtroppo anche negli altri settori, a cominciare dal pesce, perché pochi pensano che anche il pesce abbia la sua stagionalità e si continuano a comprare prodotti che arrivano dall'estero senza saperlo e si trascura sicuramente la stagionalità, che per avere un ottimo prodotto sicuramente è una delle ragioni principali. Ma continuiamo questo giro, rimanete comunque con noi e andiamo andiamo ora in un'azienda agricola al Mulino di Azio, in provincia di Varese, dove abbiamo Valeria Ciglia, che è un'allevatrice di capra. E a lei chiedo, come ho chiesto prima a una collega, perché molte donne si dedicano alle capre e si dedicano alla produzione dei caprini. C'è una qualche ragione particolare? Buongiorno Valeria. Buongiorno. Allora, se lei parla di un legame emotivo con l'animale, posso dirle che la capra conquista, perché è un animale molto simpatico, ha delle dimensioni corporee molto simili a quelle di una donna, per cui diciamo che siamo alla pari in campo. In realtà la scelta dell'azienda agricola al Mulino è sorta dal fatto che noi lavoriamo e viviamo nella comunità montana delle Valli del Verbano, a ridosso del Lago Maggiore. Siamo una zona votata storicamente all'allevamento caprino. Qui ci sono c'è anche una razza autoctona che è una razza di rispetto, che è appunto la nera di Verzasca, e abbiamo la prima DOP italiana di latte crudo di capra, che è appunto la formaggella dell'Uinese, e di conseguenza questo tipo di mercato era doveroso attivarlo. Senta Valeria, vogliamo dire ai nostri radioascoltatori, proprio per informazione sui prodotti, quando si può trovare latte fresco di capra, non per produrre formaggio ma per poterlo bere? Allora, con la destagionalizzazione della nostra azienda agricola, del nostro gregge, cioè con la produzione di latte nel periodo anche invernale, grazie al fotoperiodo, quindi è una tecnica del tutto naturale importata dalla Francia, si può trovare in provincia di Varese il latte crudo di capra in cartone, quindi semplicemente pastorizzato, quindi non UHT, tutto l'anno nei supermercati. Quindi si può trovare tutto l'anno, questo è importante. Io a Milano non riesco quasi mai a trovarlo bene, quindi dovrò venire in provincia di Varese, dove, esatto, dove mi vede che stanno uscendo moltissime aziende con la produzione dei caprini. Varese e Como stanno diventando un po', come posso dire, una capitale. Ma prima di introdurre una produttrice particolare, io vorrei così magari introdurla con una musica. Son la mondina, son la sfruttata, son la proletaria che già mai tremò. Buongiorno a Beatrice Baldi, produttrice di riso. Buongiorno a tutti. Sono cambiati i tempi da quando queste canzoni imperversavano? Sono cambiati in meglio o in peggio, dipende da che punto di vista. Noi siamo tre generazioni di agricoltori, di cui l'ultima prettamente a quote rosa, cioè io sono ditta ABM e gestisco l'azienda con mia sorella, e poi c'è sotto la supervisione della mamma. Provincia di Cerreto Lomellina, quindi... Pavia. Pavia no, volevo dire allora Vialone Nano o Carnaroli? No, Vialone Nano, sì, per quanto riguarda molto di più la parte di Pavia e la Certosa di Pavia. Noi facciamo linee Clearfeed, cioè linee di riso per combattere le erbe infestanti, quindi siamo coltiviamo riso in base alle richieste di mercato, ecco. Quindi qual è ora la richiesta di mercato più importante? Perché mi sembra che alcuni risi così importanti come il Balilla e Roma siano tutti scomparsi. Oggi cos'è? Il Carnaroli quello che tira di più? Sì, beh, certo, si parla di risotto, si parla di Carnaroli, indubbiamente. Ma è l'arborio, secondo lei, è adatto al risotto? Dipende dall'esigenza che uno ha. A livello casalingo va bene, si può accoppiare bene anche col baldo. Se invece andiamo sui palati un po' più fini per soddisfare a livello di ristoranti, il Carnaroli e il Vialone Nano molto ben pubblicizzato. Quindi io voglio tornare a Renata Lovati per chiedergli, visto che lei ha una storia abbastanza interessante, mi sono letto appunto i passaggi, ho letto anche un suo articolo, è cambiato molto negli ultimi 20 anni per la donna in agricoltura, Renata? Cambiato nel senso che molte più donne sono ritornate a lavorare la terra, proprio per scelte di vite personali o perché hanno ripreso in mano le aziende di famiglia, o perché magari anche andando in pensione hanno proprio ripensato di comunque tornare alla coltivazione della terra. Questo è secondo me una cosa molto positiva, perché le donne sono forse anche un po' più curiose, più attente soprattutto alla salvaguardia dell'ambiente, e fanno un tipo di agricoltura più sostenibile in genere. Bene, Valeria Ciglia, volevo chiederle, lei ha un caseificio molto particolare, ce lo vuole descrivere? Il caseificio di paglia si chiama così proprio perché è fatto con i balloni di paglia, quindi abbiamo usato proprio quei cubotti di paglia pressati che usiamo da mettere sulla lettiera per fare appunto il letto agli animali, come muri per il caseificio. E lo stesso ha una struttura in legno e un bel tetto verde sopra, dove ora c'è un bel prato fiorito, ed è una struttura completamente biosostenibile, che ci permette peraltro di fare degli ottimi formaggi di capra, proprio perché ha una capacità di mantenere una temperatura mite e costante all'interno per tutto l'anno, senza bisognare di pompe di calore né di raffrescamento, e di conseguenza l'ambiente che si respira internamente è sano, naturale, e ci permette appunto di trasformare molto bene il latte. Fabiola Di Silvio, sentite molto la concorrenza sulla frutta e sulla verdura dell'estero, che arriva dall'estero? Sinceramente la nostra clientela è capace di riconoscere le cose italiane ed è molto preparata. Sinceramente no. Bene, Beatrice Baldi, ormai la gente, diciamo, cucina sempre meno a casa, il risotto ci vuole del tempo, si stanno scegliendo sempre di più dei risi, diciamo, quelli che vengono considerati d'accompagnamento, che arrivano appunto da paesi orientali. È a rischio la produzione italiana? Beh, no, non è a rischio la produzione italiana, dobbiamo sempre di più difenderci appunto dalle importazioni estere. Io ho sposato un ristoratore e posso dire che il risotto è chiesto, sempre meno persone lo fanno a casa, appunto perché è una preparazione lunga, ma io spero si mantenga la richiesta di farsi un buon risotto sia a casa che fuori casa, appunto salvaguardandosi da questi risotti già precotti, confezionati, che distruggono la produzione italiana. Ecco, ma suo marito usa il Carnaroli per fare il risotto? Certo. quindi ma glielo sceglie lei, immagino. Glielo procuro io, sì. Bene, grazie a Beatrice Baldi, azienda agricola Baldi di Ceretto Lomellina, grazie a Fabiola Di Silvio, grazie a Renata Lovati e grazie a Valeria Ciglia. Buon lavoro a tutte. Grazie mille. Grazie a voi. Il gastronauta. Eccoci di nuovo in questo viaggio nell'imprenditoria femminile in agricoltura. Come ho ripetutamente così citato, sicuramente molti non pensano che ci siano tante donne alla guida di aziende agricole, ma è una realtà molto importante che è cresciuta negli ultimi tempi, e ci sono anche dei casi molto, molto divertenti, molto significativi. E io comincerei ora a parlare di questo con Lorella Ansaloni, che è non solo un'agricoltrice, poi dopo parleremo della sua attività, ma anche responsabile nazionale di Donna Imprese Coldiretti. E allora a lei chiedo, il movimento sta crescendo anche bene ultimamente, vero? Sì, buongiorno. Sì, buongiorno signor Paolini, sì, è verissimo. Ormai dai dati Union Camere del primo trimestre 2013 ci confermano che quasi 235.000 donne sono alla guida di imprese agricole, e quindi quasi una su tre in sostanza. Ciurpa d'unga li veri braghi bianchi, fora di palanchi, fora di palanchi. Ciurpa d'unga li veri braghi bianchi, fora di palanchi, canduma sa. lunga, li veri braghi bianchi, fera di palanchi, candumata. C'è un bel cambiamento da quando si cantavano queste canzoni, vero? Sì, decisamente. Ormai l'agricoltura ha assunto una veste imprenditoriale e quindi ha cambiato atteggiamento e soprattutto sta dando nuove possibilità all'imprenditore agricolo, e le donne sanno conoscere benissimo queste novità. Lei è un caso veramente interessante, perché addirittura ha avuto il coraggio di lasciare l'attività in banca per dedicarsi appunto all'agricoltura. Beh, un bel coraggio. Il posto fisso. Dieci anni fa, quando il posto fisso in banca era un miraggio, era per molti un punto di conquista. Invece lei ha preferito la campagna. È vero, e ho trovato veramente uno stimolo importante per una nuova vita che mi sta dando grandi soddisfazioni, davvero. Ecco, una cosa che ha colpito molto, credo, tutti gli italiani, appunto il danno provocato dal terremoto, questa reazione proprio che è avvenuta principalmente in agricoltura. Credo che, diciamo, i produttori di Parmigiano Reggiano hanno dato così un'ampia dimostrazione appunto dell'unità e della ripresa. So che lei si è occupata appunto anche del problema del terremoto. Sì, anche perché io purtroppo risiedo nell'area del terremoto, perché sono di Medolla proprio, quindi l'ho vissuta e la sto ancora vivendo, insomma, da molto vicino. Lei ha avuto molti danni? Beh, sì, abbiamo perso un sacco di materiale, diciamo, all'interno. Io ho un garden di vendita al pubblico, perché siamo floricoltori oltre che frutticoltori e viticoltori, e poi purtroppo i nostri, tutti gli fabbricati di campagna sono tuttora inagibili, insomma, quindi... Abbiamo salvato la casa, ma il resto no. Ecco, a quanto mi risulta, diciamo, non è arrivato ancora una lira, mi dicono, da parte dello Stato, è così? Sì, purtroppo i rimborsi sono lentissimi, quindi la percentuale è sotto di pratiche, diciamo, positive che stanno ricevendo i fondi, sono sotto le dita di una mano, quasi, si possono contare, ecco. Siamo su un 2-3% al massimo. Bene, rimanga con noi, perché ora andiamo a Dannico, in provincia di Cremona, alla cascina Barosi, da Benedetta Rospigliosi. Buongiorno Benedetta. Buongiorno. Io so che la sua cascina, appunto la sua azienda, ha guardato negli ultimi anni in particolar modo all'innovazione tecnologica. Ecco, ci vuole un po' parlare appunto di queste innovazioni che avete portato in questa azienda, che lei ha portato in questa azienda, che tra l'altro produce vacche da latte, se sono ben informato. Sì, produciamo latte con le vacche da latte. Quindi avevamo un allevamento, poi dal 2008 abbiamo cominciato a considerare un po' quelle che erano degli investimenti nelle energie alternative, e quindi abbiamo cominciato con degli impianti fotovoltaici, perché comunque il consumo di energia elettrica da parte di un'azienda agricola è abbastanza elevato, perché per esempio d'estate noi raffreschiamo le vacche, e quindi aveva un senso anche sui tetti posizionare degli impianti fotovoltaici. Poi nel 2010 abbiamo anche fatto un piccolo impianto di biogas da 250 kW, che viene in parte alimentato coi liquami delle vacche, in parte con altre biomasse che coltiviamo. Questa introduzione dell'innovazione dà dei risultati, non solo magari dal punto di vista, se vogliamo, ambientale, ma anche dal punto di vista economico? Sono entrambi i motivi che ci hanno spinto a diversificare. Intanto diversificare, perché comunque il latte in alcuni anni può essere un settore abbastanza difficile, quindi avere, diciamo, essere esposti su due settori un po' diversi. E poi c'è sia sinergia, se vengono dimensionati giusti questi impianti, quindi non eccessivamente grandi e in proporzione alla terra che uno ha, c'è molta sinergia, perché si sfruttano intanto i liquami e le tane che prima venivano direttamente mandati nei campi, adesso hanno un passaggio in più, nel senso che passano nell'impianto, dopo comunque vanno a finire nei campi. C'è sia un vantaggio, diciamo, ambientale, sia poi ovviamente noi la vendiamo questa energia. Ah, quindi diciamo c'è anche un ritorno economico. Ecco, non le sembra che, diciamo, queste informazioni siano ancora un po' carenti proprio nel mondo agricolo, cioè l'informazione, di far girare questa informazione, che ci voglia molta più informazione per far capire a molti agricoltori che si possono ottenere dei risultati sia dal punto di vista ambientale che dal punto di vista anche economico sui propri bilanci. In provincia di Cremona, dove io mi trovo, tante aziende agricole hanno fatto investimenti simili ai miei, quindi secondo me almeno qui è stato abbastanza capito. Quindi c'è stato un processo di diffusione dell'innovazione, insomma, questo credo sia molto, molto importante. Sì, c'è stato un po' di difficoltà, se vuole, all'inizio, nel senso che chi vendeva gli impianti voleva vendere solo impianti grossi, mentre ognuno deve scegliersi l'impianto giusto per la sua dimensione. Certo. Rimanga con noi, torniamo a Lorella Ansaloni. Volevo chiederle, le donne imprese Coldiretti, di cui lei è responsabile nazionale, fa anche diciamo informazione sull'innovazione, oltre che diciamo sulle pratiche normali dell'agricoltura? Sì, guardi, lei ha centrato proprio un tema che mi sta veramente molto a cuore. È stato il primo progetto che ho messo in pista nel momento in cui sono diventata responsabile nazionale. Quindi un progetto di formazione rivolto alle nostre donne in particolare, e che comunque spero che venga veramente coinvolto tutto il mondo agricolo, perché sono convinta che la formazione, sia di marketing, sia di economica, finanziaria, sia comunque il motore indispensabile per far andare bene un'azienda. Ecco, lei tra l'altro mi sembra di capire che ha organizzato un punto di campagna amica aziendale, se non erro, è così? Sì, infatti già ormai 2 anni fa abbiamo iniziato, cioè come Coldiretti abbiamo veramente iniziato a sostenere questa vendita diretta con il rapporto diretto col consumatore, quindi con una filiera agricola tutta italiana. Io ho abbracciato veramente subito questa idea, perché è la trasmissione diretta del valore delle nostre aziende e quindi è un veicolo veramente fondamentale per arrivare al consumatore direttamente. Bene, voglio tornare a Benedetta Rospigliosi, perché la sua è anche un'azienda, è anche una fattoria didattica. Ci vuole spiegare cos'è una fattoria didattica e lei cosa fa per definirsi fattoria didattica? Dunque, io sono una fattoria didattica accreditata di Regione Lombardia, quindi vuol dire che ci sono un certo numero, anche abbastanza elevato, di aziende agricole che hanno fatto un percorso sia di formazione sia di aggiornamento continuo ogni anno con docenti specializzati, e che quindi alla fine di questo accreditamento poi offrono alle scuole e ai gruppi delle giornate in fattoria. In queste giornate ognuno, diciamo ogni realtà agricola, offre quello che più la caratterizza. Nel mio caso, per esempio, io ho tutti dei percorsi sulle mucche, sulle trasformazioni del latte, sulle energie alternative, quindi diciamo la cascina dell'energia rinnovabile è un titolo di un mio percorso. E quindi, per dire, se andassero da un apicoltore farebbero tutto un certo tipo di attività legate alle api, al miele. Se vengono da me fanno invece, scoprono tutto quello che è, diciamo, l'allevamento e la trasformazione poi del latte, piuttosto che a seconda poi come uno si mette d'accordo con gli insegnanti. Ecco, e qual è la reazione? Cioè, ci sono visite? C'è pubblico interessato? Allora, il pubblico è molto interessato. Il grosso problema delle scuole, che poi si è acuito anche in questi anni, sono i costi di trasporto, che incidono tantissimo, e io ho visto quest'anno le scuole che sono venute da me era perché riuscivano a venire con i pullmini delle scuole, quindi scuole della zona. Diventa più difficile perché un pullman incide 500-700 euro, non so, molto caro, per invece delle gite da lontano. Bene, io ringrazio Benedetta Rospigliosi e Lorella Ansaloni. Ebbene, chiudiamo questo viaggio bellissimo tra le imprenditrici, tra le donne in agricoltura. Abbiamo visto casi molto variegati, da allevatrici di bestiame a produttrici di formaggio, di vino e di latte, e quindi credo che sia un mondo veramente completo. Io allora sul finale voglio fare un omaggio, voglio dedicargli una canzone molto, molto particolare, che è un po', insomma, è un omaggio. Sentiamola. Musica. quando spunta il sole, l'anella Abruzzo tutto do, e prosperose campagnole discendono le valli in fior. Bene, abbiamo sentito questo ultimo omaggio, un omaggio alle donne imprenditrici, e il vostro Davide Paolini vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima settimana.